Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono, Cristina Tagliabue. Oggi parliamo di un tema a me caro: i videogiochi, i videogiocatori, il mondo videoludico, tutte cose. Buongiorno Luca. Sì, tutte cose un po' strane, tutte cose un po' da maschietti in realtà. Ma sì, insomma, però dai, diciamolo che questo mondo dei videogiochi è un po' complesso, che alla fine è a voi che vi piace tanto stare davanti al televisore o davanti al computer tutte quelle ore. Io ho raccolto un po' di dati intorno a questi videogiochi incredibili. Per esempio, io non lo sapevo, una famiglia su tre è in possesso almeno di una console. Ma non solo, se vuoi sapere esattamente tutto, il settore del videogioco è più grosso e fattura molto di più già del mondo del cinema. Si diverte di più davanti a una console che davanti al grande schermo. Ma non lo so, però nel 2008 il fatturato del videogiochi è stato di 1.2 miliardi di euro. Cioè sono delle cifre imbarazzanti. Sono delle cifre enormi, imbarazzanti, che dimostrano come insomma i videogiochi sono diventati o stanno per diventare alla stregua di quello che erano i dischi di vinile, nel senso che un pezzo del ricordo di una generazione che oggi ha 30 anni. I videogiochi hanno 30 anni più o meno, per cui insomma sono diventati un medium a tutti gli effetti e ci sono generazioni intere che li utilizzano come si utilizzava un po' di anni fa il disco di vinile per ascoltare la musica. Sono entrate a far parte della nostra cultura. A tal punto che ci sono anche personaggi che insomma scrivono libri sui videogiochi parlando dei videogiocatori e realizzano pure sitcom. Vero Laudiero? Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo qui in trasmissione Simone Laudiero, autore di... Il romanzo si chiama La difficile disintossicazione di Gianluca Arcanoid. E la sitcom si chiama Pong. Sentiamo la scheda di Laudiero. Simone Laudiero è nato a Milano nel 1979, ma per sbaglio. I suoi genitori sono di Napoli ed è cresciuto ai quartieri spagnoli. Incomincia a giocare a 5 o 6 anni, Asteroids su un Atari 2006. Sono i primi anni 80 e la madre è più brava di lui. Da grande approda alla console Sega e si forma sui primissimi RPG, Phantasy Star, Shining Force, per poi riscoprirli a fine anni 90. Final Fantasy, Xenogears, Final Fantasy Tactics. Macinatore di strategici in tempo reale, impara a parlare orchesco imitando gli orchi di Warcraft. Discreto giocatore di Tekken e Winning Eleven, odia i giochi di auto. Dal 2006 scrive programmi comici tra i quali Camera Caffè e Piloti. Nel 2008 è stato pubblicato il suo primo romanzo, La difficile disintossicazione di Gianluca Arcanoid. Nel 2009 ha ideato e scritto Pong, una sitcom dedicata ai videogiochi. I games li ha nel sangue. Allora, i games li hai nel sangue, sicuramente li hai nella testa. Che cosa fai durante il giorno? È sfata assolutamente, altrimenti ti picchio, il mito che i videogiocatori sono persone senza una vita privata, che passano il tempo sul divano, grassi, hanno ciccioni, ciccioni con le patatine. Non è così, vai. Ma ce ne sono di tutti i generi di videogiocatori, ci sono anche quelli ciccioni ovviamente per questioni di statistica. Io personalmente cerco di, ogni tanto magari tra una console e l'altra cerco anche, ecco, di che cosa rappresenta per te il gioco? Cioè che cos'è? È al posto, sostituisce un film, sostituisce qualcosa o è un momento in più nella giornata? No, non sostituisce niente, è uno dei miei hobby, delle cose che mi piace fare, cioè, l'ho sempre fatto e non mi sono mai trovato a dire da adesso giocherò a videogiochi e smetterò di fare questo o quello. Ma Luca, io avrei una domanda però, perché insomma alla fine invece in questo romanzo mi sembra che Simone racconti la storia di Gianluca, un ragazzo dipendente dai videogiochi, che però a un certo punto vorrebbe tornare a una vita normale, però alla fine, come dire, se lo sogna il videogioco di notte, no, che gli ritorna e dice torna da me, cioè questa relazione coi videogiochi può essere normale? Può sicuramente essere normale ed è pieno di persone che hanno un ottimo rapporto con i videogiochi. Io volevo raccontare la mia esperienza, che è abbastanza... cioè non sono molto bravo a limitarmi sull'argomento e ciclicamente prendo la console di turno che sto utilizzando per giocare e la chiudo o la butto o la consegno a qualche amico per evitare di... di perdere definitivamente il contatto. Però questo appunto è la mia esperienza conosco tantissime persone che se la cavano. A cosa che stai giocando adesso? Adesso ho un Xbox 360. E a cosa giochi? Ma l'ultimo proprio bello a cui ho giocato è un gioco che si chiama Call of Duty, che è una simulazione di seconda guerra mondiale. Ecco, questa è una roba dove si spara. Magari se spiegate anche a chi non sa cos'è Xbox. La console della Microsoft, e il Call of Duty diciamo che è una delle serie più gettonate, più di successo, ha di solito l'ambientazione della seconda guerra mondiale, e sia il ruolo qual è? Quello del soldato semplice, se non sbaglio. Sì, un soldato semplice, dietro una catasta di legna con un fucile che deve ammazzare il nemico più giapponesi possibile. Quanti ne hai ammazzati? Non riesci a contarli. Io ho fatto milionate di zombie, cioè invece io ho il tema dello zombie, che invece per me è strategico. Però è quello un altro tema. C'è la Cristina Tagliabue che giustamente ci guarda. No, strano, vabbè, insomma, dico, ma, ok, è follia. Ma contiamo che sia io che l'Odiego. Adesso io l'Odiego purtroppo non posso metterci le mani sul fuoco. Però insomma, io sono la persona più pacifica del mondo. Ho un rapporto meraviglioso con gli altri. Non prenderò mai obiettori di coscienza, mai prenderò in mano una pistola, per cui insomma questo dovrebbe dire qualche cosa. 824-0024 se volete intervenire in trasmissione, se giocate, se amate giocare, se volete creare dei giochi, perché poi parleremo anche del mestiere del programmatore di videogiochi. 349-238-6666 se volete chiedere qualche cosa a Simone e agli altri ospiti. Perché tra le altre cose, a parte Simone che insomma si esprime e parla del mondo dei videogiochi attraverso media diversi, il libro, la sitcom, hai qualche altro progetto da questo punto di vista? No, direi che basta così. Facciamo sentire però un pezzettino della sitcom per capire un po' di che cosa si tratta. Attento, ci occupo bombardieri. Tranquillo, ho sbloccato il fucile zabaglionico. Occhio ora in culo però, metti mascarpone. Allora, quelle mi appesantiscono. Ragazzi, 10 minuti sono passati, così ci perdiamo l'inizio del matrimonio. Ma vai serena, Vale, adesso ammazziamo il cioccodrillo. Perché la logica qual è? La logica è... cioè due persone con le manopole, con i joypad in mano davanti a un televisore, un po' un camera caffè, però dove al posto della macchinetta del caffè c'è una telecamera, c'è il videogioco. Esatto, e se mi permetto di dire anche funziona particolarmente bene, me lo dico da solo, perché in effetti... Te la canti e te la suoni, no, è molto bella. Da un punto di vista strettamente tecnico della... il fatto che in questo caso i due personaggi devono interagire con la camera, si trovano a interagire continuamente con la camera perché la camera è l'oggetto con cui stanno giocando, quindi anche... Io mi sono segnata degli appunti, no? Allora, i protagonisti sono Carlo e Oliviero, due coinquilini appassionati ai videogiochi, l'ambientazione è il salotto cucina dove c'è la postazione a divano console, e poi ogni tanto arriva Valeria, Giulia Viana, la ragazza di Oliviero, comprensiva, affettuosa, ma anche dotata di un buon, forte, come dire, senso comune. Lo stesso, come dire, c'è sempre questo personaggio femminile che smitizza, diciamo, la vostra... passione, dipendenza, no? Che entra a rompere un po' le scatole, diciamo, le uova nel paniere dei pazzi giocatori. E lo stesso anche nel libro c'è questo personaggio della fidanzata femminile che cerca di tirar fuori dal mondo, ma come dire, i videogiochi, e riportare nel mondo reale questo luogo comune della donna che interviene per staccare l'uomo dalla console. Lo scapateremo tra pochissimo, però prima rispondi, cioè è così. Cioè l'hai giocata così nella sitcom? Sì, l'ho giocata così sia nella sitcom che nel romanzo, perché inevitabilmente la ragazza finisce facilmente per svolgere l'altro ruolo, per fare la parte del mondo, per portare le ragioni del mondo, mentre i ragazzi, cioè l'arrovellamento appunto su qual è la tecnica migliore per uccidere uno zombie, diventa il... Certo, la chiave di volta. Noi abbiamo in collegamento Tommaso Tessarolo di Current TV. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cristina, perché abbiamo chiamato Current? È perché non lo so, ho perso la memoria. Abbiamo chiamato Current perché anche loro si stanno interessando di videogiochi, cioè ci stanno credendo in un certo senso, vero? Stiamo credendo, e come, a parte che personalmente sono un grandissimo appassionato di videogiochi, quindi è un tema sfondato. Siamo in tantissimi, diciamolo. Ma io personalmente posseggo ad esempio tutte e tre le console di gioco più popolari sul mercato, perché non mi volevo far mancare niente. Il problema è che progressivamente mi è andato a mancare il tempo, per cui fanno bella mossa accanto al televisore adesso. Comunque sì, con Karen ci crediamo molto nei videogiochi, sia per diciamo la nostra serie sulle investigazioni tecnologiche che facciamo, che adesso riparte tra un paio di settimane, che si chiama Geek Files, che è un programma piuttosto unico nel suo genere in Italia, perché non ci sono molti programmi di tecnologia. Ce lo racconti un pochino? Ma è una serie di 12 puntate, siamo adesso al lancio della seconda stagione, dove trattiamo vari argomenti appunto di tecnologia, da quali sono i veri padroni di internet, a come stanno evolvendo le tecnologie che potremmo indossare, quelle che potremmo portare in giro, alla privacy, ai robot, eccetera. E tra i temi che abbiamo trattato spesso, che tratteremo anche questa stagione, ci sono sicuramente anche quelli dei videogiochi. Parallelo molto interessante che faremo sia nel Geek Files, quindi su queste inchieste tecnologiche, che in una puntata del Vanguard, che sono le nostre inchieste internazionali italiane, è i videogiochi che vengono usati ad esempio dal governo americano come strumento di reclutamento per nuove leve per l'esercito. Okay. Che questo è tra l'altro a sua volta un videogioco, nel senso hanno fatto anche dei film dove il ragazzino si allenava ai giochi spaziali e poi veniva preso dalla NASA per farlo giocare, per farlo combattere nello spazio. E adesso è stato proprio istituzionalizzato, negli Stati Uniti ci sono dei grandissimi centri dove i ragazzi vengono invitati a giocare a questi giochi di simulazione di guerra, tipo Call of Duty, appunto, che si citava prima. Dimmi. Ecco, scusami Tommaso, ti interrompo perché in realtà io dicevo ho perso la memoria, perché ovviamente facevo riferimento al mitico Letenox, ovvero il farmaco del quale Karen TV ha fatto pubblicità nelle ultime settimane. Cosa serve questo farmaco? In pratica promette, nella campagna spot che abbiamo visto, che tra l'altro è bellissima, promette di rimuovere i ricordi negativi, no? I brutti ricordi. Ed è nato anche un po' un caso mediatico, perché c'è stata una giornalista sul Fatto Quotidiano che ha scritto: ah, ecco, su questo canale fondato dal Gore si fa pubblicità di uno psicofarmaco che serve a cancellare la memoria. In realtà invece questo psicofarmaco è servito per lanciare una bellissima idea di format televisivo basato sui videogiochi. Sì, esatto, il caso Letenox è scoppiato un paio di settimane fa, è stato un fatto clamoroso, perché appunto il classico esempio di come poi certe informazioni vengano non controllate dai giornali e pubblicate dopo il Fatto Quotidiano, c'è stato anche il Corriere della Sera il giorno dopo. Il Letenox appunto è questo sedativo memoriale, noi abbiamo mandato in onda uno spot sul canale, in realtà, come diceva Cristina, è il promo di una nuova serie ultra sperimentale, che mai è stata nulla di simile è stato provato in Italia, che lanciamo. Ecco, Tessarolo, ma sarà per maschi o per femmine? Cioè... No, sarà per tutte e due. La serie è un'investigazione, quindi per sua natura il genere investigativo è un genere, diciamo, misto, che piace moltissimo alle donne e che piace anche agli uomini. Ecco, perché tra l'altro io sto ricevendo gli sms, cioè Francesca da Padova, che saluto, che scrive di aver finito più volte Doom, e Monica da Milano, questo per rispondere anche a Cristina, che si definisce drogata, che insomma non riesce mai a smettere. Per cui insomma c'è un buon numero di ascoltatori femmine, che insomma sono super appassionate, ma noi questo un po' lo sapevamo, vero Simone? Sì, negli ultimi anni, specialmente, adesso non voglio offendere nessuno, ma da quando c'è la Wii in giro. Ah beh, certo, certo, ha allargato il perimetro. Quella cosa che serve per far perdere peso, la Wii? No, non lo so, nel senso che tutte le mie amiche l'hanno comprata perché c'era un famoso programma che serviva per, non so, correre o fare sport. E infatti sicuramente c'è anche Panariello testimonial, quindi vabbè. Però... io ringrazio Tessarolo e caramba, volevo, visto che abbiamo parlato di donne che giocano, ma ci sono anche donne che scrivono giochi, che creano dei giochi. Noi abbiamo in collegamento Benedetta Sciascia, buongiorno. Sì, ciao. Sciacca, sentiamo la scheda che abbiamo preparato. A Ha la passione per gli animali. Ha 4 cani e 8 gatti. Vive in una villetta fuori città, a Lentini, in provincia di Siracusa. Fa volontariato perché l'aiuta a distrarsi dalle lunghe ore passate davanti al PC. Perché Benedetta Sciascia, tra le tante cose, crea videogame. Inizia nel 97 a lavorare con la grafica vettoriale. Da qui il passo al web è breve. Ma la svolta avviene con il linguaggio Flash. Benedetta impara ad animare gli oggetti e si misura con il mondo dei giochi per cellulare. Ne inventa 30 insieme al marito. L'anno scorso scopre Xbox 360. Oggi, con il nickname Kitty, crea, disegna e programma da sola per la comunità indipendente di Xbox. Le sue ultime creazioni, Cocktail Paradise e Shatsu Massage. Gioco-applicazione che fa uso inconsueto del controller Xbox. Benedetta Sciacca, lo ripeto 3 volte, ho sbagliato. È un lapsus, sì, è così, è proprio un lapsus freudiano. Buongiorno. Ciao. Allora, lei ha creato un gioco che trasforma la manopola della Xbox in uno strumento per lo shatsu. Sì, ecco, il controller. Il pad, sostanzialmente. Ecco, non so se ha sentito quello che si è detto oggi, ma è evidente che insomma, lei è donna e a lei giocare piace, o sbaglio? Sì, sì, mi piace. Ma? Infatti, cioè, li faccio anche perché mi ispirano quelli con cui gioco. Posso dire una cosa, giusto perché arrivano tutti questi sms di donne che secondo me sono inventati, peraltro, perché Luca se li sta inventando di sana pianta, no? Ma Benedetta, mi scusi se così, perché insomma noi donne poi alla fine abbiamo bisogno anche di creare, no, un ambiente positivo intorno alle cose che accadono nella casa. Allora, se c'è un uomo che è particolarmente fantasioso, particolarmente inventivo, particolarmente giocatore, alla fine noi abbiamo bisogno anche noi di metterci lì vicino al computer e dire vabbè, adesso, visto che insomma dobbiamo stare con lui, con costui, adattiamoci, facciamo qualcosa. Da cosa nasce la tua necessità di inventarti, come dire, queste cose così strane sullo shatsu e nei videogiochi? Lo strano dello shatsu, non lo so se ho ben capito la domanda. Vuoi sapere come nasce l'idea? Sì. Ma sì, mi sembra una cosa così particolare. Allora, ho ricordato un pochino, un paio di anni fa, un mio amico americano mi ha fatto vedere la patata McCain. Cosa? Sì, no, sì, me la ricordo. Spiega cos'è. Allora, la patata McCain è presente anche nel cartone animato Toy Story, era l'amico di, diciamo, del personaggio principale. Ed è una patata col cilindro e con il naso grosso. Sì, sì, sì, me la ricordo presente. Il mio amico ne aveva una versione giocattolo che vibrava. E da lì? Sì, praticamente gli dava la corda e me la metteva, che ne so, nelle mani, o me la appoggiava nel braccio, nel collo. E allora io, insomma, giocando con la Xbox, mi è ritornata in mente questa patata che lui me l'appoggiava addosso. Io pensavo allora che sarebbe stato un bel massaggio e allora ho collegato la patata al controller dell'Xbox. Poi ho pensato, perché no, sai, la poltrona shatsu che ti fa tutti questi massaggi particolari nella schiena, nelle gambe, ovunque, insomma. Per cui un giro di idee è uscito fuori questo shatsu. Chiaro, master. Chiarissimo, è chiarissimo. Allora, ma tra l'altro non hai fatto solo questo qui, ne hai fatto anche un altro di gioco, ce lo racconti? Sì, prima di Shatsu Massage ho fatto Cocktail Paradise, ma quello è semplicemente un ricettario di cocktail, se vogliamo. Era molto, molto di grafico, infatti ci sono le foto proprio dei cocktail che si preparano, è molto accattivante proprio l'immagine, proprio vederlo è bello. Quello l'ho pensato perché magari, sai, una festa, quando uno dà una festa con gli amici e preparano le bevande, le cose, insomma. E allora mettere in una televisione a schermo molto grande, tipo 40 pollici, che ne so, metterci la schermata della Xbox con tutte queste immagini molto particolari, perché gli sfondi sono molto belli, piacevoli da vedere, e scegliere nel contempo comunque i cocktail da preparare insieme, mi è sembrata, insomma, una bella idea. Quindi più che un gioco è un'applicazione questa, sì, diciamo. È un'applicazione, anche Shatsu Massage è un'applicazione, certo. Anche se in realtà dentro Shatsu Massage ci sono anche dei minigiochi. Ecco, allora io ti chiedo di restare con noi perché poi anche nella seconda parte della trasmissione ci racconti anche se si campa con inventando giochi, ma prima di lasciarci e dare la linea alle borse, che cosa devi imparare per programmare un gioco? Cosa devi studiare? Tu che studi hai fatto? Allora, io ho fatto degli studi che non c'entrano nulla, comunque io nasco come grafica. Io ho fatto, infatti anticipavate che io ho fatto giochi per i telefonini, io facevo la grafica per i giochi per i telefonini, queste due mie applicazioni sono le prime che ho fatto come programmatrice, ma io sono una grafica, comunque sia la parte grafica che la parte di programmatrice, diciamo, sono assolutamente da autodidatta. Certo, è più facile essere autodidatta per la grafica, come programmatrice diciamo che ci sono arrivata anche con l'aiuto di manuali, poi mio marito è un programmatore da anni, per cui sono stata sempre... Per cui è una cosa di famiglia il gioco. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, stiamo parlando naturalmente di videogiochi, tra l'altro mi chiedono una citazione su Resident Evil, cioè come non fare una citazione di Resident Evil, è uno dei giochi sul mondo degli zombie più importanti, storici, insomma è un pezzo della mia vita. Comunque al di là di questo eravamo in collegamento con Benedetta Sciacca, che crea videogiochi e che ci stava raccontando, anzi ci sta raccontando adesso, se si campa con i videogiochi. Come funziona innanzitutto? Tu produci adesso videogiochi per la Xbox Live, cioè per il circuito online di Xbox. Lì come funziona? Come funziona il fatto della... Come funziona? Cioè guadagni qualche soldo creando videogiochi per il circuito indipendente dell'Xbox? Sì, certo. E allora, praticamente pubblicando un gioco di successo, non un gioco qualunque, ecco, l'importante è che sia un gioco di successo che prende veramente il ecco, giocatore. Ma cosa vuol dire gioco di successo? Cioè... Il gioco di successo è quello che viene molto scaricato, viene molto acquistato, che è tra i primi in classifica, che sta nella top sell, insomma. Infatti Shatsu lo è stato per 3 settimane in top sell. Ecco. Pubblicando un gioco del genere, nel breve periodo sicuramente sì, si ci campa. Ecco, ma facciamo riesci a fare un esempio su come funziona la forma di pagamento? Cioè vieni pagata in base al numero di persone che scaricano, che lo acquistano? Sì. Quindi tu prendi in percentuale rispetto al prezzo? Sì, certo. Sono un po' come le royalties per i libri, per gli scrittori, oppure come i designer che guadagnano una piccola percentuale a seconda di quanto l'industria riesce a vendere? È circa il 50% di quello che si vende che si guadagna. Allora è piuttosto alta, come dire, in realtà la percentuale che arriva all'autore del gioco, perché nel mondo dei libri è dal 5 all'8%, lo stesso anche nel mondo del design, 5, 6, 7%. Vuol dire che in realtà siete degli autori molto valorizzati. No, infatti la percentuale è alta, però si prende sul numero, cioè sulla quantità venduta, perché comunque i prezzi sono molto contenuti. Allora, c'è da dire, lo dico io, che stiamo parlando di giochi che si scaricano da internet, cioè questo tipo di giochi che ha realizzato Benedetta Sciacca, sono giochi dove devi avere la console connessa a internet, non li trovi nei negozi di videogames. È vero che Xbox come PlayStation, come Nintendo, quindi come la Wii, hanno tutti un negozio virtuale, cioè un negozio da cui scaricare contenuti di giochi, però insomma presuppone non solo avere un tipo di console ma avere anche un collegamento internet. Però se mi posso permettere, è come se alla fine Jovanotti o comunque degli autori musicali, no, mentre viene scaricato il loro brano da iTunes, guadagnassero mezzo euro, no? Di quell'euro canzone, che costa, certo, la canzone. Comunque non è male come tipo di riconoscimento. Assolutamente. No, infatti non mi lamento. Allora c'è stato un mese in cui hai guadagnato parecchio, Benedetta. Sì. Benedetta, il prossimo gioco? Cosa? Il prossimo gioco che cosa sarà? Ma intanto sto lavorando ad un'altra versione di Cocktail Paradise. Questa volta sarà meno incentrato sulle immagini e più incentrato sulla ricerca nei database. Cioè sarà un database di cocktail molto più vasto e ci sarà molti tipi di ricerca. Diciamo che si potrà cercare il cocktail per qualunque tipo di cosa, tipo per frutta, oppure in base al colore, oppure se in base al grado alcolico. Okay. Ecco, ci saranno molti più criteri di ricerca. Ok, ti ringrazio. A presto. Grazie, arrivederci. Noi abbiamo anche in collegamento, che stiamo un po' a bomba sul tema del mercato di chi sogna, di chi aspera di creare un videogioco, di chi diventerà uno sceneggiatore di videogame. Abbiamo Marco Caprelli della Ubisoft. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi invitato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, voi siete il secondo editore in Europa di videogiochi, se non sbaglio. Sì, Ubisoft è una delle principali case al mondo di sviluppo e anche editore di videogiochi. E siete anche tra i pochi che fanno sviluppo in Europa, perché diciamo oggi se un ragazzo vuole nella vita inventarsi un videogame, creare un videogame, campare insomma di questo, deve lasciare l'Italia. Diciamo che la situazione in Italia non è delle più semplici, delle più rosee, sono poche le case che fanno videogiochi nel nostro paese e devo dire molto coraggiose, perché si tratta di un'industria ormai molto grossa che dai tempi d'oro, se possiamo dire così, in cui ancora i giochi si potevano fare programmare nella propria camera da letto o in un garage, così come tramandano alcune leggende del settore, ora invece parliamo appunto di una grossa industria paragonabile a quella del cinema, dove gli investimenti sono molto molto importanti, dove su un progetto, in alcuni casi parlo dei blockbuster più, certo, più importanti, lavorano centinaia di persone per anche 2 anni di tempo, per cui ecco, visto che anche purtroppo diciamo lo stesso metro di paragone si può portare col cinema italiano, che sicuramente, non dico per qualità o competenze autoriali, però sicuramente per investimenti non è proporzionale a quello oltreoceano, ecco, la stessa cosa direi che vale per i videogiochi. In paesi come l'America o il Giappone, o comunque anche rimanendo in Europa, ecco, i nostri cugini francesi, ci sono delle produzioni molto molto grosse, ecco, con competenze professionali anche molto specializzate. Ecco, quali sono queste componenti, cos'è che serve per intraprendere questa carriera? Abbiamo visto nel caso di Benedetta Sciacca, lei è un'autodidatta. Ma intanto complimenti a Benedetta, perché appunto, come dicevo, non è facile fare videogiochi nel nostro paese, non è facile fare videogiochi in assoluto, perché comunque appunto è un tipo di lavoro che richiede delle competenze, una dedizione e una passione particolari, farlo nel nostro paese ancora di meno, per cui insomma un in bocca al lupo a lei per i suoi prossimi titoli, per il suo lavoro. Dicevo, fare videogiochi, essendo qualcosa tutto sommato di molto articolato, di molto complesso, è un tipo di lavoro che vede all'opera professionalità diverse, che vanno da quelle prettamente creative, quindi sceneggiatori, illustratori, chi si occupa della grafica 3D, chi si occupa anche, compiti anche molto specializzati, come ad esempio l'illuminazione degli ambienti di gioco, per dirne e lì ci vuole una scuola specializzata, immagino, cioè lì a quel punto devi aver bisogno di qualcuno che ti sa, sì. Insegna a usare un software in 3D, un CAD. Assolutamente, diciamo che sempre per riprendere il paragone che ho citato prima col cinema, anche in questo caso può venire comodo farlo, proprio perché ormai cinema e videogiochi molte volte, anzi il cinema ormai sempre di più utilizza la stessa base tecnologica dei videogiochi, cioè quella della computer grafica. Ovviamente i videogiochi vivono, il mondo dei videogiochi vive all'interno di delle console, dei computer, e ormai molte volte, lo sappiamo tutti, i film sempre di più utilizzano la computer grafica per creare quegli effetti speciali che ormai siamo abituati a vedere al cinema, che sono assolutamente stupefacenti. Quindi sì, ad esempio persone che sanno usare computer, programmi di computer grafica 3D, programmi di animazione, ma ci sono anche illustratori, persone in grado di disegnare a mano libera, che sono comunque molto importanti, proprio perché all'inizio di un progetto, quando ancora sei in una fase di brainstorming e bisogna catturare il mood, bisogna catturare l'atmosfera, bisogna... Quindi ci sono anche figure, diciamo, più letterarie. Dimmi, Cristina. Ma io ero curiosa di capire, per un videogioco di quelli distribuiti a livello internazionale, in realtà quante persone lavorano, no? Visto che si parla di numeri simili al cinema, per fare un grande film ci vogliono 200-500 addetti, per fare un bellissimo videogioco quante persone ci lavorano? Beh, ci sono videogiochi che hanno tranquillamente 200 persone impiegate, anche di più. E poi ovviamente dipende dal flusso di lavoro, che ovviamente non è costante, ma ha dei momenti di picco, per cui ovviamente all'inizio bisognerà partire con un concetto di gioco, con un soggetto di gioco che poi verrà sviluppato, per cui all'inizio magari vengono richieste meno persone, poi via via che sia nel grosso, nel vivo della produzione, ovviamente questo numero aumenta fino ad arrivare a 200, anche ecco, 300 persone. Mi insegni anche che quello che sta succedendo nei videogame è esattamente quello che è successo nel cinema. Ci sono delle grandi produzioni, dei grandi blockbuster che sono studiati per ottenere un grande successo, e poi stanno gli indipendenti, i cosiddetti film de sé, che sono i videogiochi come quelli di Sciacca, si stanno creando una nicchia dove però sono molto molto semplici rispetto alla complessità appunto di un Resident Evil o di Call of Duty, per cui da un certo punto di vista si sta un po' estremizzando il mercato. Da un lato le grandi produzioni, giochi bellissimi con estremamente completi, lunghi, con grafica eccezionale, dall'altra più che giochi, esperienze di gioco. Ma assolutamente, in effetti per alcuni dei nostri titoli parlare di esperienze è forse più indicato, nel senso che viene proprio l'intenzione è proprio quella di ricreare un mondo che in alcuni casi appunto viene declinato anche su media completamente diversi, come il cinema, come i fumetti, come i romanzi e anche i giocattoli, per cui sono proprio delle suggestioni che possono prendere vita e riprodursi in forme molto diverse tra di loro. Esiste, come dicevi, anche una scena per i videogiochi indipendenti, proprio perché poi al di là della spettacolarità è importante per un gioco soprattutto che sia divertente da giocare, ed esistono anche persone che grazie ad una grande passione riescono a produrre dei giochi semplici ma che vivono grazie a delle grandi idee. Ora, il più famoso, forse l'esempio più lampante, è quello di Tetris, che sicuramente è un gioco che non richiede grandi tecnologie, ma semplicemente vive grazie all'idea geniale che ne è l'anima. Diciamo che poi parlare di videogiochi è un po' troppo generico, nel senso che all'interno dell'universo di videogiochi esistono ormai così tante forme diverse, così tante tipologie che è un po' come parlare quando, non so, se Caprelli, vogliamo... abbiamo una battuta finale, so che state realizzando, cioè proprio per raccontare il rapporto tra cinema e giochi, voi per Assassin's Creed avete realizzato addirittura dei corti. Esatto, Assassin's Creed 2, che esce questo novembre per tutte le principali console di gioco, è uno dei nostri brand, uno dei nostri personaggi più importanti. E avete deciso di lanciarlo con dei mini film, sostanzialmente. Perché, come dicevo prima, la storia, i personaggi, l'universo di gioco sono molto molto importanti. Tra l'altro questo nuovo capitolo è ambientato nel Rinascimento italiano, per cui insomma è anche molto particolare, molto bello per noi che viviamo in Italia. E quindi si è pensato di declinare, far vivere questi personaggi e questa storia anche in dei corti cinematografici, tre corti cinematografici che la gente potrà vedere presto in occasione del lancio del gioco, che sono, ecco, sono corti proprio fatti con attori in carne ed ossa, tra l'altro realizzati da Hybrid Technologies, che è la casa di produzione che sta dietro alcuni film che tutti conosciamo, come ad esempio 300 o Sin City, ma hanno lavorato anche Viaggio al Centro della Terra o a Spy Kids, insomma. Grazie Caprelli, abbiamo finito il nostro tempo. Nova Lab 24. Nova Lab 24. La banda larga è un diritto. Lo ha stabilito il governo finlandese con un provvedimento che entrerà in vigore a partire da luglio 2010. Secondo la nuova legge, a ogni cittadino verrà garantita una connessione di almeno un megabyte. Obiettivo finale, entro il 2015, collegamento a 100 megabyte al secondo per tutti. Per il Brindisi, una bottiglia di Twitter. Il vino dei microbloggers esiste davvero. Si chiama Fledging Wine. ed è l'etichetta lanciata oggi da Twitter in collaborazione con l'azienda vinicola californiana Crash Pad. I proventi delle vendite del vino andranno interamente all'organizzazione Room to Read per l'alfabetizzazione dei bambini di tutto il mondo. Google contro il malware. La casa di Mountain View ha appena varato un nuovo strumento capace di evidenziare eventuali codici maligni presenti nelle pagine del web. Il motore di ricerca indicherà con un avviso le pagine web in cui il software rileverà gli script dannosi. Una città musicale a marchio Sony. La cittadina islandese di Seyðisfjörður è stata trasformata in un vero e proprio insediamento musicale nell'ambito della campagna Soundville del marchio giapponese. Per una settimana musica del tipo dei Dead in Vegas, Bob Dylan e dei Gilmots è stata diffusa da centinaia di altoparlanti di tutte le dimensioni in giro per la città. Predire il comportamento delle folle. È l'obiettivo del software sviluppato dall'Università di Milano Bicocca, presentato al programma Digital Planet BBC. Secondo la coordinatrice del progetto, Sara Manzoni, il nuovo modello si differenzia dagli altri perché è fondato sull'osservazione del comportamento individuale delle persone all'interno di una folla. Bentornati, puntatona sui videogiochi, Simone. Ti convince questo link tra videogame e cinema, tra grandi produzioni e cinema d'essè? Ma quello a cui pensavo mentre ascoltavamo l'ospite precedente è che rispetto al mercato del cinema, il mercato dei videogiochi sembra già molto più incastrato dalle necessità di un budget molto grande. Cioè io stesso, se vado a comprare un videogioco, al 90% mi oriento su dei giochi che sono costati davvero molto. Quindi mi domando come possa fare una persona che non ha a disposizione, un imprenditore, uno sviluppatore che non ha a disposizione dei budget molto alti, a fare l'equivalente che al cinema può essere un Blair Witch Project come idea. Certo. Cioè pochi soldi, un buon marketing, una buona idea. Dimmi Cristina. Perché manca la tecnologia, forse low cost, no? All'interno del gioco? No, perché poi sono linguaggi di programmazione, cioè per cui sono kit che vengono diffusi e le persone possono, cioè alle volte hanno, cioè un livello di accesso molto alto, però programmarlo richiede competenze. Poi programmare con grafica vettoriale richiede anche investimenti, computer, macchine. Però è vero che c'è un tema di questo tipo, anch'io poi di fatto mi oriento su giochi complicati, ma perché mi piacciono alla fine della fiera. Però è vero che c'è tutto un mercato di giochi indie, esattamente sono chiamati come avviene nella musica, che si sta aprendo. Ti abbiamo un po' convinto, Cristina, sulla cosa dei videogiochi? Ma insomma, sono molto incuriosita, mi sembra di parlare di un'industria come quella del cinema, appunto, anzi molto più grande e complessa, ma non lo so, rimango ancora un po' titubante. Quindi non giocherai? No, ascolterò le storie però di tutti i grandi videogamer, produttori e inventori. C'è un gioco che aspetti, Simone, no? Sì, ma non il nuovo Tekken, che è un gioco di... è un picchiaduro e... Se abbiamo capito che profilo sei. Sì. Io ringrazio gli ascoltatori, tra l'altro una promessa, insomma torneremo a parlare ancora di videogiochi, magari non tanto parlare sui media, non tanto sul ragionamento che abbiamo fatto adesso, ma parlare proprio di titoli, di storie, di sceneggiature, della parte forse più bella del gioco, che è giocare. Sì, senz'altro. Ci sentiamo domani e l'appuntamento è alle 4. Ciao a tutti.